Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Lo sapete che il nuovo può passare anche dall'antico? Per il primo dei nostri approfondimenti siamo andati a caccia di novità in un settore per noi inusuale, l'antiquariato. Il focus sui trend di questa settimana è invece dedicato ai consumi a fumetti, quando la nona arte fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Febbraio difficile per il commercio. Complici l'inflazione e le avverse condizioni meteo, i consumi segnano una nuova flessione che in alcuni ambiti della ristorazione ha toccato punte del 40-50%. La recessione non sembra toccare però l'industria del lusso, che continua ad andare a gonfie vele. Nel 2011, grazie soprattutto ai nuovi miliardari che arrivano dai paesi emergenti, ha registrato un vero e proprio boom di profitti. Marchi come Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Gucci e Prada, riporta il Wall Street Journal, hanno registrato aumenti dei ricavi tra il 20 e il 30%. Barack Obama dichiara guerra aperta a chi ostacola il Made in America, sia dentro che fuori i confini nazionali, e se la prende sia con le imprese americane che delocalizzano, sia con i paesi che ostacolano le esportazioni a stelle e strisce con pratiche commerciali sleali, vedi la Cina, quando la stessa cosa è in Italia. È un ecovillaggio nel Devon, l'ultima provocazione di Damien Hirst. L'artista più ricco del mondo, l'ex pioniere della scena artistica contemporanea britannica, che ha messo carcasse di mucche e squali in formaldeide, promuove il progetto per la realizzazione di 500 residenze ecosostenibili. Picco di ordini dall'Italia alla Shibiu Couture di Huntington Beach, California, per gli slip alla Belen. Dopo l'apparizione della showgirl a Sanremo, le vendite dello strapless panty, il particolare nude slip brevettato dalla società californiana, si sono moltiplicate e l'azienda è stata contattata da possibili distributori italiani. I giocatori di carte di Paul Cézanne diventa il quadro più caro del mondo. È stato acquistato per 250 milioni di euro, il prezzo più alto mai pagato per un'opera d'arte, dalla famiglia reale del Qatar. Sarà esposto nel nuovissimo Museo Nazionale del Qatar, disegnato da Jean Nouvel, che aprirà i battenti nel 2014. La borsa della spesa. Non si può cercare un negozio di antiquariato in via del Corso. Ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Che cos'hanno in comune un dipinto del Guercino, un canapè settecentesco e le foto di Maria Callas scattate da Margaret Burke White per la rivista Life? Sono tutti pezzi unici che portano con sé un pezzo di storia e di costume. Sono tutti esposti a Unica Fine Art Expo, mostra mercato internazionale di alto antiquariato che si chiude oggi a Modena. Abbiamo mandato Fabio Pisano a curiosare fra i padiglioni e gli abbiamo affidato una missione: scoprire cosa passa di nuovo anche nell'antico, con l'intento di sfatare i luoghi comuni, a partire dall'identikit del visitatore e acquirente degli oggetti di antiquariato. Certo è vero che negli ultimi 10 anni gran parte dell'attenzione è stata captata dal mondo dell'arte moderna e contemporanea, è innegabile. E poi percepisco dei segnali piuttosto interessanti, cioè coetanei e anche persone giovani che si avvicinano per comprare un dipinto, persone che dopo aver comprato contemporaneo dicono basta, voglio anche qualcosa di antico. Sono due mondi che possono convivere, l'arte e arte. Si cerca di puntare magari sulla bellezza di un oggetto e difficilmente l'antiquario riesce a proporre o in qualche modo a suggerire l'accostamento tra l'antico e il moderno. Invece le case dei giovani soprattutto vanno tutte verso il design e il moderno, e quindi è questa un po' l'importanza di lanciare quest'idea di questo nuovo tipo di allestimento. Non solo dipinti, sculture e mobili, antiquariato vuol dire anche oggetti di uso comune, testimoni di un'epoca lontana come cucine, affettatrici, bilance, rubinetti. Qui in fiera portiamo anche queste cucine di un artigiano fiorentino che le rifà completamente tutte in metallo, diciamo. Sono oggetti che risalgono dagli anni 20 agli anni 50 più o meno, tutte affettatrici e bilance della Berkel, tutte rigorosamente restaurate e rimesse funzionanti, possono essere anche riutilizzate, anche se la maggior parte dei clienti le compra e le usa come arredamento più che altro. Qua in fiera la cosa più apprezzata forse è la cucina, poi dopo una serie di cose, dai rubinetti in ottone al parquet, al cotto, insomma tutte le nostre cose che abbiamo in Toscana. Nel salone Petra, dedicato all'antiquariato, da esterni anche pensiline, camini, pozzi, finestre, piastrelle addirittura, e poi oggetti curiosi come un biliardino d'epoca e, pensate, una fontana che ornava la piazza di una cittadina francese. Per quanto riguarda l'arredo del giardino, i salottini e i grandi tavoli da pranzo per intrattenere gli ospiti in modo conviviale, sono molto cercati. E però noi proponiamo anche, non so, le vecchie pensiline da mettere sulle porte, c'è chi vende i vecchi pozzi, i camini, c'è una ricerca interessante sulle pavimentazioni. Noi qui siamo ad esempio specialisti in veri pavimenti di recupero in legno antichi, e c'è chi propone anche i pavimenti di recupero di cotto o di pietra. L'altro aspetto che ci consente anche di approfondire un po' la ricerca è questo di questa tendenza a recuperare vecchi mobili da lavoro, recuperare vecchi banconi da officina, vecchi finestroni sempre da officina, per riproporli in allestimenti, soprattutto nel mondo dell'abbigliamento, e vengono delle vere opere d'arte fatte da questi architetti, direttori artistici, con dei risultati che, senza costare esageratamente, sono di grandissimo effetto. Abbiamo portato qua a Petra, per esempio, una cosa originalissima, questo biliardino degli anni 20, anni 30, proveniente dalla Spagna. Un oggetto che stiamo intorno ai 4-5 mila euro. In questa zona qua, in questa parte di Petra, è una cosa anche un po' più che abbraccia un ambiente anche un po' più giovanile, anche più il discorso del design, il discorso anche del contemporaneo, e quindi abbraccia una clientela anche molto giovanile, una fascia d'età dai 35 ai 50 anni. Questa fontana del diametro di 6 metri e mezzo, che in origine era appunto nella piazza del comune di Riome in Francia e che è stata trasferita lì da Parigi, era una fontana contorno di un monumento, ovviamente il monumento poi è rimasto nel paese d'origine. Beh, generalmente chi ha la possibilità di inserirle, cioè privati che hanno parchi o comunque dimore, ovviamente un oggetto di questo genere cambia completamente l'impostazione di un parco, di un giardino, perché diciamo l'imponenza è sicuramente evidente. Essere e avere. Super GT, più veloce di Mimi, astro jet, jumbo jet. Braccio di ferro mangio, spinaci scatolati, un pugno in faccia li tirò. Con Fumetto di Lucio Dalla, canzone scelta dalla Rai nel 1969 come sigla di uno storico programma di cartoni animati della TV dei ragazzi, rientriamo in studio per il focus sui trend. Questa settimana parliamo appunto di consumi a fumetti. Se c'è il barone rosso che alle spalle colpirà. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetti Club, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Comics, manga, fumetti, linguaggio universale e trasversale, espressione dell'arte figurativa contemporanea, strumento di denuncia sociale, oggi la cosiddetta nona arte ha superato i confini della pagina per contaminare design, moda, arte, comunicazione, retail, cinema, letteratura. Non c'è ambito in cui il fumetto non sia stato messo alla prova, persino la politica, pensate, e le ricadute sui consumi sono moltissime. Patrizia. che il fumetto sia il vero layout dell'immaginario contemporaneo, e quando uso questa locuzione cito sempre Daniele Brolli, è un dato di fatto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il fumetto incorpora i segni più eloquenti del presente. Per esempio, la High Line di New York, la vecchia sopraelevata diventata un giardino orto urbano pubblico, simbolo della rinaturalizzazione delle città del futuro, fa la sua prima apparizione nella seconda edizione di Daredevil, supereroe della Marvel, tornato nell'agosto scorso. Ma non solo, il fumetto intuisce e testimonia questioni sociali, lo fa esplicitamente, questioni anche culturali e politiche, come anticipavi, come nessun altro genere. Quindi sdoganato da semplice strumento di evasione e di intrattenimento, soprattutto nella forma graphic novel, il romanzo a fumetti, la forma, possiamo dire, autoriale, adulta, tra virgolette, tratta temi storici, anche politici e sociali, con grande potenza narrativa. E il giornalismo a fumetti, ormai molto diffuso, molto in voga, costituisce un vero e proprio sottogenere, il cosiddetto graphic o comics journalism. Pensiamo all'opera di Marjan Satrapi, fumettista, sceneggiatrice, illustratrice iraniana, la prima fumettista del suo paese, naturalizzata francese, che ha raccontato in Persepolis l'Iran all'epoca della rivoluzione culturale del 79 e la Teheran di fine anni 50 in Pollo alle prugne, diventato tra l'altro anche un film, un cinecomic cosiddetto, presentato a Venezia l'anno scorso. E Pyongyang, reportage in bianco e nero a fumetti sulla capitale della Corea del Nord, chiusa e sotto dittatura, del canadese Guy Delisle, che ha documentato anche le esperienze lavorative nella Cina globalizzata, ha raccontato la Birmania e tra l'altro con l'album Cronache di Gerusalemme è stato premiato ad Angoulême, il Festival Internazionale del Fumetto, proprio quest'anno. Ma ancora i reportage dalla Bosnia e dalla Palestina di Gio Sacco o opere come il fumetto Piazza Fontana di Matteo Fenoglio e Francesco Barilli su una delle stragi che hanno segnato il secondo Novecento italiano. Nella contaminazione con le merci, moda letteralmente a fumetti è quella proposta da Betty Fallon, seguitissima fashion blogger e cosplayer. Il cosplaying, lo ricordiamo, è un fenomeno di costume ormai diffusissimo, è quella pratica di dress fiction di chi si veste come i personaggi dei comics o dei manga preferiti, che grazie alla rete ha avuto un'ulteriore esplosione di community e relativi raduni offline. Due riferimenti: cosplay.com e Superhero Costuming Forum. Betty Fallon, nel suo blog che si chiama Fashion Tips from Comic Stripes, dà appunto consigli di moda dalle strisce a fumetti, e si trovano i boxer da uomo di Diesel versione Batman e Flash, le scarpe di Converse versione Batmobile per bambini da 1 a 3 anni, la collana con il ciondolo di Kryptonite, eccetera. Del 2010 la collezione di magliette, felpe e cappellini illustrati con i personaggi Marvel in stile Tokidoki. Tokidoki è il marchio di Simone Legno, noto graphic e toy designer romano che vive a Los Angeles, presentati al San Diego Comic Con 2011 e da poco arrivati in Italia la sua versione di alcuni di questi personaggi come Spider-Man, Iron Man o Hulk, in versione questa volta zipper pull, cioè piccoli pupazzetti vinyl toy con moschettone da appendere a giacche, zaine, cellulari e portachiavi. Tratto da un fumetto anche Hugo Cabret, ultimo film di Scorsese, autore culto di un cinema della modernità metropolitana, che questa volta si cimenta in una storia, diciamo, alla Spielberg, con protagonisti due bambini in una Parigi Belle Époque, in cui il cinema del periodo fantastico artistico di Georges Méliès diventa il vero protagonista. Il film è di fatto l'adattamento del fumetto romanzo dell'americano Brian Selznick, The Invention of Hugo Cabret. Il fumetto è molto particolare perché è un libro con una parte disegnata e una parte di testo. Hugo Cabret, ma non solo, sono moltissime le contaminazioni tra cinema, TV e fumetto, dalle trasposizioni sul grande schermo dei supereroi della Marvel, Spider-Man, Batman, Iron Man, Hulk, solo per citarne alcuni, al recente Tintin di Spielberg, tratto dal fumetto belga di Hergé, fino alle serie TV tratte dalle omonime strisce a episodi come The Walking Dead, la serie cult sugli zombie. E poi ci sono anche fumettisti che diventano registi, come Gipi, che con L'ultimo terrestre adatta la graphic novel di Giacomo Monti, Nessuno mi farà del male. E poi mi chiedo sempre che forma hanno, cioè come sono fatti proprio, se sono alti oppure se sono bassi, se si possono toccare, se invece sono solo energia. Anna. O forse non Anna. c'è una cosa che forse ti farebbe piacere vedere. Un nostro amico che lavora al ministero dice che il governo è già d'accordo con loro, che sbarcheranno presto, che andrà tutto bene, insomma che sono pacifici. Asseita, uno! Uno è lungo! Se un rettiliano, stai lontano perché sono mossi da impulsi sessuali. Mi si appoggia dietro! Okay. Non devi avere paura degli alieni, andrà tutto bene. Avevano detto che arrivavano, ma io non credevo che fosse così, che ci si potesse trovare così bene insieme. Io avverto una forte negatività in te. Dovresti aprirti, abbandonarti un po' più alle energie positive astrali. Patrizia, recentemente il fumetto ha fatto la sua comparsa anche nelle proteste di piazza. Un articolo del Guardian titolava il 20 novembre 2011 L'arte della rabbia, come il fumetto underground ha ispirato il movimento Occupy. Le connessioni tra fumetto e attualità sono forti ed evidenti anche da un punto di vista iconografico. Infatti la maschera bianca e nera di V for Vendetta di Guy Fawkes, graphic novel e anche film, è diventata l'oggetto simbolo indossato e l'icona anche dei vari manifesti dei movimenti di Occupy, ma non solo, proprio per la sua forza simbolica legata a rabbia, indignazione, lotta per la libertà di espressione, sovversione, eccetera. Quindi, mentre la cultura mainstream continua a validare in maniera conservativa un certo tipo di società, di visione e di modelli economici, la cultura underground del fumetto, della graphic fiction in generale, racconta società contemporanee invece profondamente alienate, e per questo si presta a diventare un serbatoio da cui pescare simboli e icone per movimenti di protesta politica. Mondo cartaceo, materico, solido, di oggetti feticcio da possedere e collezionare, anche il fumetto però fa i conti con la multicanalità fruitiva e diventa sempre più digitale. Dal 1 settembre 2011 la DC Comics pubblica nello stesso giorno i fumetti cartacei e quelli digitali. Come per i libri, i quotidiani, le riviste e tutti i prodotti editoriali di carta, l'impropria domanda diventa subito se il digitale segnerà o meno la fine del cartaceo. Non abbiamo risposte, ma intanto è stato presentato all'ultimo Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême in Francia il nuovo progetto di François Chuitain. Si intitola La Douce, della serie Città Oscure, ed è il primo fumetto aumentato, cioè che usa soluzioni in realtà aumentata. È un espediente che riguarda solo il risvolto di copertina, nel quale c'è un segno grafico, un marker che, inquadrato da una telecamera di un computer, produce un filmato in 3D della locomotiva protagonista dell'opera che si vede a schermo. Tra gioco e fumetto, un fumetto in versione gioco di società. Fresco di produzione è il gioco ideato dagli autori del fumetto francese dell'anno, I segreti del Quai d'Orsay, cronache diplomatiche, sono Abel Lanzac e Christophe Blain. Il gioco si chiama La corsa all'Elysée, la corsa all'Eliseo. E a Brooklyn c'è Super Hero Supply and Co., un negozio vero nato da un'idea dello scrittore Dave Eggers, in cui si può acquistare tutto il necessario per diventare supereroi. In vendita prodotti che si possono veramente acquistare, come una confezione di antimateria, una lattina di antigravità, lo spray di invisibilità e tutti i possibili kit anticrimine. Il negozio è di fatto l'affaccio su strada di una scuola di scrittura creativa che aiuta giovani studenti a coltivare la passione per la scrittura e che in questo modo si autofinanzia. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo ad Angoulême, Francia, su consumi, fumetti e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Beh, lo citavate prima, il Festival del Fumetto che questa cittadina ospita ogni anno a fine gennaio è una delle più importanti manifestazioni fumettistiche europee. L'edizione di quest'anno è stata teatro di un interessante e un po' misterioso caso di rovesciamento di uno dei più celebrati graphic novel, quel Maus di Art Spiegelman, in cui l'autore statunitense racconta l'olocausto a partire partire dalla storia della sua famiglia deportata a Auschwitz. Nelle pagine di Maus, e da qui il titolo, gli ebrei sono rappresentati come topi e i nazisti come gatti. Un anonimo ha pensato bene di diffondere copie del fumetto rinominandolo Katz, dove, lasciando inalterato il testo, ha trasformato in gatti tutti i personaggi, generandone un poco scalpore, visto che proprio Spiegelman era l'ospite d'eccezione di questa edizione. All'origine del gesto, di chiara ispirazione situazionista, c'è l'intento dello sconosciuto autore di rileggere criticamente l'intera opera, in particolare la metafora topi-gatti, attraverso un nuovo paradigma, in cui gli attori di quella tragedia appartengono tutti alla stessa specie, come nella realtà, senza ruoli di buoni e cattivi imposti dalla natura o dalle convenzioni. Ma non è tutto, perché l'operazione voleva innescare una riflessione più alta sul concetto di proprietà intellettuale e sulle possibilità potenzialmente infinite di creare il nuovo a partire dal patrimonio artistico esistente. Grazie Alessia. Patrizia, consumi a fumetti, moda passeggera o tendenza destinata a radicarsi? Ma l'avvicinamento ai territori immaginari del fumetto, di questa nona arte, è una tendenza molto consistente, testimoniata anche dall'apertura di un museo del fumetto, Wow, Spazio Fumetto, il nuovo museo milanese inaugurato lo scorso anno nello storico stabilimento Motta. Sono 1000 metri quadrati di spazi espositivi, grande biblioteca archivio in cui ci si può immergere nella cultura e nel mondo del fumetto, che, lo ribadiamo, è un mondo ad altissimo tasso di comprensione del presente. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.